Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey e Priscilla. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, in onda alle 14 sui 103.1 FM di Radio Città Fucico e il lunedì mattina, o meglio a partire dal lunedì mattina, sul nostro sito www.radioballoon.info, in cui troverete il podcast della puntata, naturalmente i podcast delle puntate precedenti con gli approfondimenti di cui ci siamo serviti in puntata. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo del 1989. In Polonia. Nella scorsa settimana abbiamo iniziato a descrivere la geografia di questo 1989 con la puntata che abbiamo intitolato Effetto Domino, in cui abbiamo veramente viaggiato nel 1989 e, come avevamo promesso nella scorsa puntata, che era la prima di tre puntate che dedichiamo al 1989, andiamo in Polonia. Perché la scelta di questo paese? La scelta di questo paese è interessante perché parlare della Polonia non significa solo parlare di uno dei paesi che maggiormente hanno vissuto questo anniversario, che hanno vissuto questo momento della caduta del socialismo, ma significa anche mettere le mani in un terreno su cui avevamo iniziato a mettere le mani nella nostra puntata di due settimane fa, quando avevamo parlato alla risoluzione dedicata allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la risoluzione che è intitolata sull'importanza della memoria europea, in cui veniva fuori quell'equiparazione, così diciamo semplificando ma non troppo, fra nazismo e comunismo e la corresponsabilità della Germania hitleriana e dell'Unione Sovietica nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Con la risoluzione, avevamo detto, getta le proprie radici nella visione della storia da parte dei nuovi paesi membri, fra virgolette, che sono i paesi dell'Est Europa, in cui al governo ci sono movimenti sovranisti, diciamo anche movimenti di estrema destra. Diciamo anche che le recentissime elezioni, la Polonia comunque ha visto una percentuale altissima, credo intorno al 60% per i partiti della destra populista, quindi insomma c'è un percorso storico che potrebbe nascere dall'89 e poi ha avuto questo esito. In realtà noi oggi andiamo proprio ad indagare insomma delle complessità maggiori della Polonia, sia quando era ancora all'interno della cortina di ferro, sia poi quando se n'è liberata. Esatto, e lo faremo in diversi modi. Racconteremo il 1989 polacco, naturalmente, come si è arrivati a questo 1989 polacco, ma racconteremo anche la narrazione che esiste oggi in Polonia di questi avvenimenti tramite il racconto di alcune mostre che quest'estate sia io che Priscilla abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi. Quindi è un'esperienza diretta. Fatto una vacanza in Polonia, esatto. Tutti vanno al mare, noi andiamo in Polonia. In Polonia a cercare la radice dell'Europa. Per cui, prima di partire, terremo fermi alcuni luoghi. Questi luoghi sono principalmente Danzica, un altro luogo è Cracovia e vedremo perché. E vedremo poi la cara Varsavia. E la cara Varsavia, e vedremo in che maniera si racconta tutto questo. Adesso un breve stacco musicale. Ritrovati sulle frequenze di Walloon. Allora, stavamo parlando appunto degli effetti dell'89, della caduta del muro di Berlino in Polonia, ma in realtà noi vorremmo parlare degli effetti della crisi polacca sulla caduta del muro di Berlino, perché in realtà è da questa prospettiva che ci stiamo avvicinando all'anniversario del 9 novembre 89. Allora, è un effetto a catena, no? Che si è scatenato per motivi esterni, ovviamente, perché la risoluzione esterna, insomma, la pressione dell'Unione Sovietica sugli ex alleati del patto di Varsavia, insomma, si allenta nel 1989, però in realtà la Polonia già stava premendo molti anni prima. Io credo che, se vogliamo periodizzarlo, il 1978, quando viene eletto Papa, dopo 455 anni, non è più un Papa italiano, ma un Papa polacco, che è Papa Wojtyla. Possiamo anche dire che questo è l'inizio proprio di un processo che porterà a una maggiore indipendenza della Polonia dall'Unione Sovietica, ma poi farà effetto erosione sulla cortina di ferro. Questa è, diciamo, una prima data, perché la notizia appunto viene data in televisione e nel giro di poche ore la gente scende in piazza a festeggiare la nomina del Papa con le bandiere polacche. Quindi capite anche come questo effetto ha avuto immediatamente una ricaduta nazionalista, ecco, della nomina del Papa. E poi nel 1980, in una situazione di crisi economica e aumento dei prezzi, il 14 agosto gli operai del cantiere Lenin, che è un cantiere navale enorme della città di Danzica, proprio sulla costa del Mar Baltico a nord, entra in sciopero. Protestano contro il licenziamento per motivi politici di l'operaia Anna Valentinovic, che era vicinissima alla pensione. A guidare la protesta c'è un uomo che avrebbe poi rappresentato, insomma, il futuro della Polonia, che è Lech Wałęsa, che si pronuncia così, l'abbiamo scoperto da poco, che non si dice Walesa ma Wałęsa. E da questo momento in poi, se già negli anni 70 c'erano stati dei primi grossi scioperi, sempre a partire da Danzica, in realtà da questo momento è proprio arrivato il momento fatidico, nel senso che nel 1980 gli scioperi si estendono in tutto il paese. E da questo momento che poi nascerà Solidarność, perché verrà con la pressione popolare e la pressione degli scioperi l'Unione Sovietica e il governo di Gomulka darà appunto l'opportunità ai lavoratori di crearsi un proprio sindacato indipendente, che è appunto quello di Solidarność, che guiderà il paese fuori dall'Unione Sovietica. Ok, andiamo prima con un pezzo musicale e poi dopo rientriamo nella storia di Solidarność. Kiedyś dadzą ci karabin, każą równo spać, kiedyś każą załadować, potem oddać strzał. Siłą pędzą do okopu, błotą biją twarz. Później padnie rozkaz, umrzyj i skończy się czas. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz, rozkaz, a sztandar powiewa nasz. Tamten frajer z drugiej strony to odwieczny wróg. Rozkaz padł rzucać granat, on już jest bez nóg. Miał 20 lat jak ty i chciał rzucić też. Ty dostaniesz wielki order, z niego tryska krew. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz, rozkaz, a sztandar powiewa nasz. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Deszcze niespokojne potargały. Ecco, rimaniamo con in questo viaggio che stiamo facendo nel crollo del socialismo in Polonia, diciamo, nell'effetto domino di questi vi stiamo raccontando queste settimane. Rimaniamo proprio ad Danzica, perché lì inizia il nostro racconto su il racconto della storia polacca da parte dei polacchi stessi. Scusate il gioco di parole. A Danzica c'è il Museo di Solidarność, allestito nei luoghi della protesta di Solidarność di fronte al monumento ai caduti del 1970. Se non sbaglio, sì, dovrebbe essere nominato, sì, intitolato a loro. E c'è questo museo che devo dire che secondo me è molto bello perché è ricchissimo di materiali, sfrutta al massimo le nuove tecnologie per coinvolgere, e questa è una parola che è importante, di cui dobbiamo tener conto, coinvolgere il visitatore all'interno della storia polacca, e ricostruisce il lento percorso di costruzione di questo sindacato indipendente all'interno dei cantieri navali e pian piano l'effetto che ha avuto nell'erodere dall'interno, come diceva Priscilla, il sistema comunista polacco. Il museo, diciamo, molto bello, c'è una collezione permanente ricchissima di materiali, elemento questo che è facilitato sicuramente dalla vicinanza storica con gli eventi narrati, ma è un museo che presenta un unico punto di vista, cioè nel senso è il museo evidentemente voluto dall'organizzazione Solidarność, quindi è ovvio che racconti la propria storia, ma allo stesso tempo racconta questa storia, questo Priscilla mi saprà dire se lo pensa anche lei, racconta una storia in maniera unidirezionale, cioè non esistono fratture, dai cantieri di Danzica si arriva al crollo del comunismo. C'è al centro naturalmente la figura di Lech Wałęsa, io lo chiamerò Lech Wałęsa perché non riesco a pronunciarlo con la pronuncia corretta, però diciamo c'è Lech Wałęsa. C'è naturalmente molto Papa Wojtyła, naturalmente, ma non sembra che sia una storia di popolo, cosa che effettivamente è stata, perché Solidarność è stata capace di intrecciare un sentimento ampiamente diffuso nel popolo polacco che viveva sicuramente con sofferenza il tallone di ferro del regime di Gomulka e dei governanti che l'hanno preceduto, viveva con fatica la sudditanza politica nei confronti dell'Unione Sovietica, ma apparentemente non sembra che anche in questo caso i polacchi non ce ne fossero che avessero partecipato. Cioè è una storia che è raccontata con un popolo polacco che si libera da un regime burattino, ecco. Sì, esatto, guarda, la percezione che ho avuto visitando con te il museo di Solidarność, ma visitando anche il museo della sollevazione del ghetto di Varsavia, questo del 1944. Allora, stiamo parlando, come dicevi tu prima, di musei all'avanguardia, perché sono veramente visitabili con attrezzatissimi, con tutte le tecnologie, audioguide in tutte le lingue. Tutte le lingue, ma non è, cioè, proprio anche un coinvolgimento emotivo, e sembra di stare all'interno proprio di un film tridimensionale. Sono davvero dei musei eccezionali. Però allo stesso tempo, esatto, hanno questo difetto qua, nel senso che è una storia che è un monologo storico sulla liberazione del popolo polacco da un nemico esterno. C'è quindi un'innocenza, un vittimismo, sia nei confronti delle persecuzioni ebraiche nel 1944 in Polonia, quindi nei confronti del nazismo, sia nei confronti dell'Unione Sovietica, che quindi è come se fosse un po' un'autoassoluzione del popolo polacco da tutti i crimini che vengono perseguiti in questi anni, dal nazismo all'89, insomma. Quindi in realtà su questo si basa, secondo me, cioè su questi musei sono proprio al centro di una narrazione nazionale e quindi di una ricostruzione della memoria condivisa nazionale polacca, che su cui appunto i sovranismi oggi fanno tanta forza, perché vi ripeto, cioè ho visto questo bellissimo museo di Varsavia della rivolta del ghetto del 1944, non viene nominata una volta la complicità dei polacchi nelle persecuzioni ebraiche, che in realtà sono state proprio ormai sdoganate dalla storiografia. Noi lo sappiamo che c'erano tanti polacchi che collaboravano con i tedeschi, ok? Come c'erano tantissimi italiani, tantissimi francesi, quindi in realtà non è una colpa polacca, è un problema comune. Un problema storico, ma come naturalmente ci sono stati tanti polacchi che hanno prodotto una coraggiosissima lotta di liberazione nazionale. Cioè, ricordiamo sempre naturalmente che la Polonia ha contribuito in maniera determinante alla liberazione del nostro paese, per cui la nostra non vuole essere un atto d'accusa nei confronti della storia polacca nel popolo polacco. Quello che ci interessa è vedere e criticare duramente il racconto storiografico, ma il racconto di memoria che ne viene fatto. Su questo punto ci fermiamo per un brevissimo stacco musicale e riprenderemo esattamente da questo punto. Jako dzień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem twojego skrzydła na wodzie rysuję ślad. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, postać ci daj. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Sono i 103.1 FM di Radio Città Fujiko, questa è Valluna, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che vi sta guidando in un racconto attraverso la Polonia, nell'Europa dell'Est proprio, alla ricerca del senso dell'89, ecco, diciamo. Però dall'89 ci siamo un po' spostati prima della pausa musicale, perché giustamente Alessia ha fatto, Priscilla ha fatto riferimento al racconto di tutta la storia polacca, cioè una storia che viene vista come una storia di vittime che reagiscono a delle oppressioni esterne. e in cui non si fa menzione, fra virgolette, di complicità, condivisioni, chiamiamole come ci pare, cioè di percorsi che invece non sono stati così granitici. Io aggiungo infatti proprio per questo il riferimento ad altre due mostre che ci raccontano in maniera molto chiara questo tipo di sentimento. Uno è parte da molto lontano, ecco, che è il panorama dedicato a Tadeusz Kościuszko, l'eroe polacco che sconfisse durante la guerra di successione a fine Settecento i russi in un'epica grande battaglia. Ebbene, nell'audioguida a questo panorama, un dipinto bellissimo dedicato a questa battaglia, quando si fa riferimento ai ministri della cultura della Polonia socialista non si cita neanche il nome, quindi una vera e propria damnatio memoriae. L'altro è è un'installazione, diciamo un'esposizione a Cracovia, che è la fabbrica di Schindler. Naturalmente è figlia del film di Spielberg, Schindler List, e in questa mostra, in cui si racconta l'occupazione di Cracovia di fatto e la storia dell'imprenditore Schindler, un personaggio poi dai contorni non troppo netti secondo me, però questo è un altro discorso, e si costruisce un percorso che va dall'indipendenza polacca, l'agognata indipendenza polacca raggiunta dopo la prima guerra mondiale, all'occupazione nazista, alla persecuzione ebraica, e la mostra si chiude, l'ultima immagine che lo spettatore vede è un ritratto di Stalin. Ora, naturalmente, lungi da noi voler difendere la figura di Stalin, quello sia chiaro, lungi da noi difendere l'Unione Sovietica, però cerchiamo di ragionare in senso storiografico. Questa mostra, che vuole condurre lo spettatore all'interno del racconto della Cracovia occupata, che quindi ha come focus quello dell'occupazione nazista, perché si chiude con Stalin? Perché si vuole costruire quell'immagine di popolo occupato, di popolo vittima di potenze esterne che in questo caso prendono il volto dei grandi totalitarismi, che è per l'appunto vittima, che non ha avuto nessun ruolo intermedio, ha solamente combattuto. E in questo senso mi viene da citare, e qui torniamo a Danzica, una mostra che purtroppo non abbiamo visto per ragioni di tempo, che però sarebbe stata interessante, anche se non so se sarei stato molto contento di vederla, una mostra che veniva intitolata Poland First to Fight, riprendendo un manifesto che circolava nel 39-40 nell'ambito dell'impero britannico, che esaltava il fatto che la Polonia era stato il primo paese a combattere, a perdere naturalmente, ma il primo paese che si era trovato a combattere contro i nazisti. Il pannello pubblicitario della mostra, che si vedeva all'entrata della stazione di Danzica, mostrava un cavaliere polacco ridisegnato che in divisa, sventolando il vessillo nazionale, saltava una trincea. L'immaginario è quello di un film d'azione. Quindi c'è questa visione a cui alludeva prima Priscilla, una visione eroica di un combattimento eroico che effettivamente è stato, sia chiaro. Noi riconosciamo il contributo, come dicevamo prima della pausa musicale, dato dalla Polonia alla vittoria sulle forze del nazifascismo, ma una maniera di raccontare la storia, la partecipazione della Polonia molto muscolare, ecco, molto eroistica. Sì, sono d'accordo, molto muscolare. Non ci avevo pensato che al di là della retorica nazionalista è veramente anche molto maschile e muscolare questa dimensione, no? Della ascesa di un popolo, di una nazione che si libera dal nemico e lo fa grazie a questa, insomma, retorica un po' anche da film americano sostanzialmente. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Però ecco, ci racconta veramente qualcosa della maniera con cui certe forze politiche polacche raccontano la storia del paese. Sì. Questa storia, infatti, io vi invito a leggere un articolo che è uscito pochi giorni fa, il 21 ottobre se non sbaglio, su Gli Stati Generali, che è appunto una testata online, giornalistica online. L'articolo è di David Bidussa, che si intitola proprio Inventarsi il passato, la Polonia per esempio, e cade proprio a fagiolo, perché quello che ci interessa, vi invito a leggerlo nel dettaglio, però Bidussa quello che suggerisce in questo articolo, pericolo e fare attenzione a quella retorica che si sta sviluppando appunto a est, in Polonia in particolare, su all'interno appunto delle forze di destra sovraniste e populiste. Perché? Allora, perché sembrano figlie, insomma, della delusione delle politiche dell'Unione Europea, no? Della crisi economica, oppure degli effetti a catena, come l'abbiamo detto noi, dell'effetto domino della fine dell'Unione Sovietica e della caduta del muro di Berlino nell'89. Però hanno delle radici molto, molto più profonde, che proprio affondano nella prima della Seconda Guerra Mondiale, ma che emergono in modo molto chiaro dalla Seconda Guerra, o da come viene raccontata la Seconda Guerra Mondiale. E qui devo dire la verità, che comunque un certo e diffuso, purtroppo, antigiudaismo cattolico fa la voce grossa, e vi invito infatti a rileggere bene questo articolo di Bidussa, perché lo spiega molto meglio di me. Però appunto noi pensiamo che l'Europa dell'Est, e la Polonia in particolare, sta reagendo all'Unione Europea, sta reagendo alla crisi economica con questo linguaggio e con le politiche sovraniste. In realtà questo è frutto, purtroppo, di un percorso molto molto più lungo, che vedeva sempre la Polonia quindi combattere con nemici esterni, e quindi in questo momento stanno facendo forza su appunto questa retorica nazionale. Bene, purtroppo siamo arrivati allo scadere di questa puntata in cui vi abbiamo raccontato un'esperienza di viaggio, abbiamo raccontato un racconto della storia, scusate la ripetizione, e abbiamo messo il dito su uno dei problemi che abbiamo sollevato nella puntata dedicata alla risoluzione dell'Unione Europea. Bene, con questo vi salutiamo, buon proseguimento di giornata a tutte e tutti, da Frey e Priscilla. Appuntamento la prossima settimana per il terzo ed ultimo appuntamento dedicato al 1989. Ciao! Buona giornata!